esci dalla mia vita ed entra dentro di me. Cadi come la neve giù, che se sottile qui dentro me. Brucia nelle mie ossa il ghiaccio che viene su. Vola come la cenere quell'emozione che pesa in me. Senti come nevica la mente mia, si imbianca ora dimentica, dimentica, amare non è da tutti. Senti come candida la mente mia, il polo sud, e naviga nel cosmico viaggiare del suo destino. Sboccia nei miei respiri la pace che cade giù. Ora prova a sorridere con quella rabbia che è chiusa in me. Senti come nevica la mente mia, si imbianca ora dimentica. Da tutti, senti come candida la mente mia, il polo sud, e naviga nel cosmico viaggiare del suo destino. Esci da qui, cammina fuori dal buio, voglio restare da solo, chiudi la porta del mio dolore così. Guardare il soffitto, senti come nevica la mente mia, si bianca ora dimentica, dimentica, amare non è da tutti. Senti come candida la mente mia, il polo sud.